le nuvole, ciel sereno, ma il nostro amore non appartiene al cielo, noi siamo qui tra le cose di tutti i giorni, di giorni e giorni grigi. Aria di neve sul tuo viso, le mie parole sono parole amare, senza motivo, prima o poi tra le nostre mani, più niente resterà. È la vita impossibile, questa vita insieme a te. Tu non ridi, non piangi, non parli più, e non sai dirmi perché. Lungo la strada del nostro amore, già inventato mille canzoni nuove per i tuoi occhi, più di mille canzoni nuove che tu non canti mai.